Questa è la storia di una mangusta che si chiama Rikki Tikki Tavi ed è una fiaba di Kipling che Gramsci ha ripreso. Ora vi racconto la storia della grande guerra che Rikki Tikki Tavi combatté da sola nella stanza da bagno del grande bungalow dell'accampamento di Segulì. Invero, Darzi, l'uccello sarto, l'aiutò un po' e Ciucciundra, il topo muschiato che non attraversava mai il pavimento ma sempre strisciava lungo i muri, le dette qualche consiglio, ma Rikki Tikki Tavi sostenne la vera battaglia. Rikki Tikki Tavi era una mangusta che per il pelo e la coda assomigliava a un gattino, ma che per la forma della testa e le abitudini assomigliava invece a una faina. I suoi occhietti e la punta del naso sottile erano color di rosa. Giungeva a grattarsi davanti o di dietro ovunque volesse e con qualunque zampa le piacesse adoperare. E arruffava la coda al punto che pareva uno scovolino. E mentre sgattaiolava in mezzo all'erba alta, il suo grido di guerra suonava così: Rikki Tikki Tikki Tikki Tikki Tavi! Un giorno, in piena estate, scoppiò un furioso temporale e la violenza dell'acqua la strappò via dalla sua tana, dove viveva con il babbo e la mamma, trascinandola giù per un fosso a fianco di una strada. La povera mangusta, fra stridi e sforzi, tentò di reagire sino a che non incappò in un pugnello d'erba galleggiante. Con un ultimo sforzo si aggrappò, poi perdette i sensi. Quando riaprì gli occhi, si trovò distesa al tepore del sole tutta sporca di fango, in mezzo al viale di un giardino. E subito udì, pur con fatica, un ragazzetto che diceva: «C'è una mangusta morta! Facciamone il funerale!» «No!» rispose una voce che doveva essere quella della mamma del ragazzetto. «Portiamola dentro ad asciugare, forse è ancora viva!» La portarono in casa e un omaccione la prese delicatamente tra l'indice e il pollice, poi disse che non era morta, ma mezzo affogata. Allora l'avvoltolarono nella bambagia, la misero accanto al fuoco ed essa, a quel tepore, aprì tutti gli occhi e starnutì. «Oh, adesso!» disse l'omaccione, era un inglese che si era stabilito proprio in quei giorni nel bungalow, «non la spaventate! Staremo a vedere che cosa farà!» Spaventare una mangusta è la cosa più difficile di questo mondo. Tanta è la curiosità che le corre in corpo, dalla testa alla punta della coda. Infatti, il motto di tutte le manguste è «Corri e scopri!» Rikki Tikki era una vera mangusta. Essa osservò la bambagia, capì che non era roba da mangiare. Dopo si mise a correre attorno alla tavola, si sedette, si lisciò il pelo, si grattò, infine saltò sulla spalla del ragazzo. «Teddy, non avere paura!» disse suo padre. «È il modo delle manguste di fare amicizia!» «Mi fa il solletico sotto il mento!» rispose Teddy. Rikki Tikki sbirciò giù tra il colletto e il collo del ragazzo, gli annusò l'orecchio, scivolò sul pavimento e infine si mise a sedere stropicciandosi il naso. «Santo Dio!» esclamò la mamma di Teddy. «Ma questa bestiolina non è per niente selvatica! Forse è così domestica perché l'abbiamo trattata bene!» «No!» disse il marito. «Tutte le manguste sono così. Se Teddy non le farà male sollevandola per la coda o non tenterà di chiuderla in gabbia, correrà tutto il giorno dalla casa al giardino e dal giardino alla casa. Adesso diamole qualcosa da mangiare!» Le portarono un pezzo di carne cruda che le piacque moltissimo. Poi, come l'ebbe finito, la bestiola uscì sulla veranda, si distese al sole, gonfiò tutto il pelo perché il caldo del sole lo asciugasse sino alla pelle e dopo un po' si sentì molto meglio. Più tardi, curiosa com'era, si mise a girare per la casa e per poco non s'annegò nella vasca da bagno. Poi ficcò il naso nel calamaio che era sulla scrivania, avvicinò il musetto all'estremità del sigaro acceso dell'omaccione e naturalmente se lo scottò. E siccome l'omaccione scriveva, si arrampicò sui suoi ginocchi per vedere come faceva a scrivere. Quando si fece notte, i genitori di Teddy andarono a guardare il loro ragazzo e trovarono Rikki Tikki sveglia sul guanciale. «Questo proprio non mi piace», disse preoccupata la mamma di Teddy. «Potrebbe mordere il ragazzo». «Oh, una cosa simile non avverrà mai», rispose il padre. «Teddy è più sicuro con quella bestiola che con un cane da guardia. Se un serpente entrasse ora nella camera...» Ma la mamma di Teddy non voleva nemmeno pensare a una cosa così terribile. La mattina dopo Rikki Tikki andò a fare colazione sulla veranda, accovacciata sulla spalla di Teddy. Le dettero delle banane e un po' di uovo sodo. Fatta colazione, Rikki Tikki uscì nel giardino per osservare quello che c'era da vedere. Era un grande giardino, coltivato per metà a cespugli di rose bellissime, grandi come padiglioni, piante di cedri indiani, di aranci, ciuffi di bambù e macchie d'erba alta. Rikki Tikki si leccò i baffi. «Questo è un magnifico terreno per cacciare!» pensò, e al pensiero gonfiò la coda correndo su e giù per il giardino e annusando qua e là. Ad un tratto udì dei lamenti che uscivano da un cespuglio di spini. Erano Darzi, l'uccello sarto, e sua moglie. Avevano costruito un bellissimo nido, cucendo gli ori di due grosse foglie e riempiendolo di cotone morbido. Mentre il leggero venticello faceva oscillare il nido, Darzi e la moglie, appollaiati sull'orlo, si lamentavano tristemente. «Perché vi lamentate?» domandò Rikki-Tikki. «Oh, siamo tanto infelici!» rispose Darzì. «Ieri uno dei nostri piccoli è caduto dal nido e Nag se l'è divorato!» Fece Rikki-Tikki. «La cosa è certamente triste, ma io qui non sono che un forestiero. Chi è questo Nag?» Darzì e la moglie, come spaventati, non risposero. Come risposta, dall'erba folta ai piedi del cespuglio, uscì un sibilo lieve che gelò il sangue a Rikki-Tikki, la quale fece un gran balzo all'indietro di due buoni piedi. Poi, lentamente, la testa di Nag spuntò dall'erba. Nag era un grosso cobra nero, lungo perlomeno 5 piedi, dalla lingua alla punta della coda. Quando si fu rizzato da terra, rimase a dondolarsi avanti e indietro, fissando Rikki-Tikki con gli occhi cattivi del serpente. «Chi è Nag?» egli disse. «Sono io, Nag. Guarda e trema». Lì per lì, Rikki-Tikki ebbe un attimo di spavento, ma è impossibile che una vera mangusta sia spaventata per molto tempo. Benché Rikki-Tikki non avesse mai incontrato un serpente vivo, ben sapeva che il compito di ogni mangusta è quello di dare la caccia ai serpenti e di divorarli. Anche Nag lo sapeva, e il suo cuore di ghiaccio tremò di paura. «Dietro a te! Guardati dietro!» gridò Darzì. Rikki-Tikki sapeva che non c'era tempo da guardare indietro. Spiccò in veloce un gran salto in aria e proprio in quell'istante guizzò, ronzando, la testa di Nagaina, la perfida moglie di Nag. Essa s'era avvicinata, strisciando dietro la mangusta per finirla. Rikki-Tikki sentì il suo sibilo di rabbia per il colpo fallito e intanto scattò, ricadendo nel bel mezzo del dorso di Nagaina. Se fosse stata una vecchia mangusta, avrebbe saputo che quello era il momento propizio per spezzarle la schiena con un morso solo, ma invece ebbe paura della terribile sferzata che il cobra vibrò all'indietro con la coda. In verità, Rikki-Tikki un morso lo diede, ma non fu abbastanza lungo per uccidere Nagaina, che restò soltanto ferita e furiosa. Intanto, con un nuovo gran salto, Rikki-Tikki si era rimessa in salvo. «Cattivo! Cattivo, Darzì!» urlò Nag, balzando in alto verso il nido, ma Darzì l'aveva costruito dove i serpenti non potevano arrivare. E il nido, al balzo di Nag, oscillò solo un poco. Rikki-Tikki, intanto, sentiva che i suoi occhi diventavano rossi come il fuoco. Quando gli occhi di una mangusta diventano rossi, allora vuol dire che è in collera. Ma Nag e Nagaina erano scomparsi in mezzo all'erba, e Rikki-Tikki non si curò di inseguirli, anche perché non se la sentiva di affrontare in una sola volta tutti e due i serpenti. E così trottelerò invece lungo il viale inghiaiato sino alla casa e poi si accoccolò per riflettere. Era davvero un affare serio per lei. Quando fu sera, uscì per fare la sua ronda attorno alla casa e correndo nell'oscurità si imbatté in Ciuciundra, il topo muschiato, che stava strisciando lungo il muro. Ciuciundra era una bestiolina molto vile e molto paurosa e piagnucolava tutta la notte cercando di farsi coraggio per attraversare le stanze, ma non ci riusciva mai. «Oh, non mi uccidere!» disse Ciuciundra quasi piangendo. «Rikki-Tikki, non mi uccidere!» «E tu credi che un cacciatore di serpenti voglia uccidere i topi muschiati?» rispose sdegnosamente la mangusta. «Chi uccide i serpenti muore ucciso dai serpenti!» continuò Ciuciundra più triste che mai. «E come, povero me, posso essere sicuro che Nag, in una notte buia, non mi scambi con te?» «Non c'è il minimo pericolo!» rispose Rikki-Tikki, per la semplice ragione che Nag sta nel giardino e tu nel giardino non ci vai mai. «Mio cugino Ciuia, il sorcio, mi ha raccontato!» cominciò poi Ciuciundra, che di colpo si interruppe. «Che cosa ha raccontato?» «Sss! Non senti qualcosa, Rikki-Tikki?» La mangusta stette in ascolto. La casa era immersa in un profondo silenzio. Tendendo le orecchie però le parve di udire un lievissimo fruscio, un rumore leggero come quello che può fare una vespa camminando sopra il vetro di una finestra. Era certo lo strofinio sordo delle squame di un serpente sui mattoni. «È Nag o Nagaina», disse tra sé, «che sta arrampicandosi su per il condotto di scarico della stanza da bagno». Rikki-Tikki si introdusse furtivamente nella stanza da bagno di Teddy, ma non vi trovò niente. Poi in quella della mamma di Teddy. Nella parete liscia, intonacata di calce, era stato tolto un mattone per aprire uno scarico all'acqua del bagno. E Rikki-Tikki, che si era insinuato lungo il risalto del muro sopra cui poggiava la vasca, udì Nag e Nagaina che parlottavano fuori al chiaro di luna. «Quando non ci sarà più nessuno nella casa», diceva Nagaina al marito, «anche Rikki-Tikki dovrà andarsene e allora il giardino tornerà a essere tutto nostro. Entra pian pianino, ricordati di morsicare per primo l'omaccione, poi vieni a riferirmelo e allora insieme daremo la caccia a Rikki-Tikki». All'udire questo Rikki-Tikki fremette da capo a piedi di rabbia e di sdegno. Poi la testa di Nag spuntò dal condotto e dopo la testa i 5 piedi di lunghezza del suo corpo. Benché furiosa di fronte alla smisurata grandezza del cobra, la mangusta fu presa da una grande paura. Nag si attorcigliò, alzò la testa, poi guardò nel buio del bagno e Ricchi Ticchi vide luccicare i suoi occhi. Ora se l'ammazzo qui, Nagaina se ne accorgerà. E se l'attacco sul pavimento libero, il vantaggio è tutto suo, pensò Ricchi Ticchi. Intanto Nag si dondolava avanti e indietro. Poi Ricchi Ticchi sentì che beveva nella grossa brocca che serviva per riempire la vasca. Com'è buona, disse il cobra. Quando l'omaccione verrà a fare il bagno verso mattina, di certo non avrà alcun bastone. E allora lo aspetterò qui. Nagaina, mi senti? Aspetterò qui, al fresco, fino al giorno. Non giungendo alcuna risposta dal di fuori, Ricchi Ticchi arguì che Nagaina se ne era andata. Meglio così. Intanto Nag si arrotolava a spira attorno alla pancia della brocca, mentre Ricchi Ticchi restava immobile come un morto. Dopo un'ora buona, la mangusta cominciò a muoversi verso la brocca, un muscolo alla volta. Nag si era addormentato profondamente. Ricchi Ticchi, osservando il grosso dorso, si chiedeva quale fosse il punto migliore per affondarvi i denti. «Se non gli spezzo la schiena al primo salto», disse Ricchi Ticchi, «può continuare a lottare? E allora povera me!» Studiò la grossezza del collo sotto il cappuccio. Era un punto troppo difficile e un morso senza presa non avrebbe fatto che inferocire sempre di più Nag. «È necessario che lo addenti alla testa», concluse Ricchi Ticchi, «e una volta là bisogna tenere la presa a tutti i costi». Detto questo, spiccò il salto. La testa del serpente sporgeva un po' sotto la pancia della brocca e Ricchi Ticchi, come ebbe stretti i denti, puntò la schiena contro la brocca di Coccio Rosso per tentare di mantenere ferma la testa del cobra. Ciò gli dette qualche attimo di vantaggio. Poi cominciò a essere sbatacchiata qua e là come un topo in bocca a un cane, qua e là per il pavimento, su, giù, in alto, in basso, ma i suoi occhi erano rossi e mantenne la presa, serrando sempre più le mascelle. E poiché era certa di essere sbatacchiata sino a morirne, per l'onore suo e della sua famiglia, preferiva ad essere trovata con i denti piantati nella preda. Già aveva le vertigini, già si sentiva tutta ammaccata, già le pareva d'essere ormai in pezzi, quando qualche cosa, proprio dietro alla schiena, esplose con il rumore di un fulmine. Un soffio acceso la investì facendole perdere i sensi, mentre una vampa rossa le arrostiva il pelo. L'omaccione era stato svegliato dal fracasso e aveva scaricato tutte e due le canne del suo fucile da caccia addosso a Nag, proprio all'altezza del cappuccio. «È la mangusta! Alice! Ma questa volta la bestiola ci ha salvato la vita!» L'indomani, Ricchi Ticchi era tutta indolenzita, ma assai soddisfatta della sua impresa. «Ora bisogna fare i conti con Nagaina. Essa sarà più temibile di 5 Nag!» Poi dalle sue uova verranno fuori tanti piccoli cobra. Mamma mia, dove saranno le uova? Bisogna che vada a trovare Darzì, disse tra sé e sé. Senza attendere neanche la colazione, Ricchi Ticchi corse al cespuglio di spine dove Darzì cantava un inno di trionfo per la morte di Nag. Dov'è Nagaina? Domandò Ricchi Ticchi. Sul mucchio delle immondizie presso le scuderie che piange la morte di Nag. Grande è Ricchi Ticchi dai denti bianchi. Lascia stare i miei denti bianchi. Hai sentito dire dove Nagaina tiene le uova? «Sì, nella poponaia, all'estremità del muro dove batte il sole. Ma Ricchi Ticchi, non vorrai mica mangiare le sue uova?» «Ma che mangiare, Darzì? Sei un grelo di giudizio, mi devi aiutare. Devi volare alle scuderie, fingendo di avere un'ala spezzata. Lascia che Nagaina ti insegua sino al cespuglio. Io devo andare alla poponaia senza che Nagaina mi veda». Ma Darzì era un uccellino dal cervello più leggero di una piuma e pur sapendo che i piccini di Nagaina nascevano dalle uova come i suoi, pensò che non era giusto ammazzarli. Ma sua moglie aveva assai più giudizio e sapeva che le uova di cobra volevano dire tanti piccoli cobra e allora volò via dal nido e andò a svolazzare davanti a Nagaina presso il mucchio delle immondizie gridando «Oh, povera me! La mia ala è rotta! Il ragazzo della casa l'ha colpita con un sasso, l'ha spezzata!» Nagaina alzò la testa sibilando «Tu hai avvertito Ricchi Ticchi quando volevo ammazzarlo! Ora hai scelto un brutto posto per venire a zoppicare!» Così dicendo, cominciò a strisciare nella polvere verso la moglie di Darzì. Ricchi Ticchi li udì che si allontanavano verso il viale delle scuderie e allora corse in fondo alla poponaia verso il muro. Là, nel tiepido strame in mezzo ai meloni, nascosti con abile cura, la mangusta trovò 25 uova, grosse come quelle delle galline di Giava e che, invece del guscio, avevano una pellicola biancastra. «Sono arrivata appena in tempo», pensò Ricchi Ticchi. I piccoli cobra apparivano raggomitolati entro la pellicola ed ella sapeva che appena fuori dal guscio ciascuno di essi sarebbe stato in grado di avvelenare un uomo o anche una mangusta. In gran fretta Ricky Ticchi si mise a rompere le uova, calpestando i piccoli cobra. E già stava per schiacciare le ultime tre, allorché udì la moglie di Darzì che strillava: «Ricky Ticchi! Nagaina è entrata nella veranda della casa e povera me pensa certo di uccidere!» A quel grido Ricky Ticchi schiacciò due uova e come un fulmine attraversò la poponaglia con il terzo uovo in bocca. Giunta alla veranda, la passò a tutta velocità, come se le zampe non toccassero terra. Teddy e i suoi genitori stavano facendo colazione, ma Ricky Ticchi subito si accorse che non toccavano cibo. Sedevano impietriti come statue e avevano i volti pallidi come cera. Nagaina se ne stava raggomitolata su una stuoia ai piedi di Teddy, dondolandosi avanti e indietro e cantando una canzone di trionfo. «Figlio dell'uomo che hai ucciso Nag!» sibilava. «Non ti muovere, non sono ancora pronta, aspetta un po'. Oh, state ben fermi tutti e tre, se vi muovete colpisco, se non vi muovete colpisco lo stesso. Oh, gente stupida che avete osato uccidere il mio Nag!» Gli occhi di Teddy erano fissi in quelli del padre e questi non poteva fare nulla, non poteva che mormorare: «Sta fermo Teddy, non muoverti Teddy». A quello spettacolo Ricky Ticchi si mise a gridare: «Nagaina, voltati! Voltati, combatti con me!» «Ogni cosa a suo tempo», essa rispose senza muovere gli occhi. «Tra poco, te!» «Ricky Ticchi, guarda come sono pallidi, come tremano di paura. Se tu fai un passo avanti, io colpisco». «Va a vedere le tue uova», disse ridendo Ricky Ticchi. «Va a vedere nella poponaglia presso il muro! Va a vedere, Nagaina!» Il grosso serpente si rigirò a metà e allora vide l'uovo sulla veranda. «Dammelo!» gridò. Ricky Ticchi lo strinse fra le zampe e i suoi occhi divennero rossi, accesi di sangue. «Che cosa mi dai per un uovo di cobra? Per un piccolo cobra? Per un giovane re dei cobra? Per l'ultimo della covata? Le formiche rosse staranno già divorando gli altri nella poponaglia!» A quelle parole Nagaina si volse interamente, tutto dimenticando pur di salvare quell'ultimo uovo. Ricky Ticchi vide il padre di Teddy tendere fulmineamente una grossa mano, afferrare il ragazzo per una spalla e trarlo sulla tavola, fra le tazze del tè, fuori dalla portata di Nagaina. «Giocata, giocata, giocata! Ricky Ticchi, Ticchi, Ticchi, Ticchi, Tavi!» strillò trionfante Ricky Ticchi. «Teddy è salvo! E sappi che sono stata io che ho addentato Nag alla testa la notte scorsa nella stanza da bagno!» Detto questo, Ricky Ticchi si mise a saltellare sulle quattro zampe a testa bassa. «Mi ha sbatacchiata di qua e di là, ma tutto è stato inutile. Era morto, Nag, anche prima che l'omaccione se lo spaccasse in due con la sua schioppettata. Io sono stata, io, Ricky Ticchi Ticchi Ticchi Ticchi Tavi! Vieni dunque, vieni, Nagaina, a combattere con me. Non resterai vedova a lungo!» Nagaina, mentre comprese che l'occasione di uccidere Teddy era perduta, vide che l'uovo era tra le zampe di Ricky Ticchi Tavi. Allora, abbassando la testa, esclamò: «Dammi l'uovo, Ricky Ticchi. Se mi ridai il mio uovo, io ti prometto di andarmene, di non tornare mai più.» «Sì, sì, te ne andrai, e non tornerai mai più, ma andrai a tenere compagnia a Nag sul mucchio delle immondizie. Su, combatti, vedova! L'omone è andato a prendere il fucile. Su, combatti con me!» Ricky Ticchi ballava attorno a Nagaina, tenendosi però lontana dai suoi colpi di coda. A un tratto Nagaina si raccolse su se stessa, poi scattò come un arco. Ricky Ticchi balzò all'indietro. Una, due, tre volte Nagaina vibrò i suoi colpi e ogni volta la testa batté a vuoto colpendo la stuoia della veranda. Poi Ricky Ticchi ricominciò a ballarle attorno nel pensiero di assalirla di dietro. Però Nagaina si volse pronta a tenerle fronte. Ma intanto la mangusta, presa nel gioco della battaglia, si era dimenticata l'uovo. Esso giaceva ancora sulla veranda e Nagaina, muovendosi lentamente, gli si avvicinava sempre di più. A un tratto, mentre Ricky Ticchi stava riprendendo fiato, Nagaina come un lampo afferrò l'uovo in bocca e gettandosi giù dalle scale della veranda volò via come una freccia inseguita da Ricky Ticchi. È notorio che quando il cobra fugge per mettersi in salvo scivola via come la sferza di una frusta schioccata sul collo di un cavallo. Ricky Ticchi sapeva che era necessario raggiungerla, altrimenti i guai sarebbero ricominciati. Nagaina filava diritta verso l'erba alta presso il cespuglio di spini, là dove Darzì ancora cantava la sua stupida canzone trionfale. Ma la moglie di Darzì aveva assai più giudizio. Appena Nagaina passò sotto il nido, essa con un volo andò a sbattere le ali sulla testa. Nagaina, abbassando la testa, ebbe un attimo di indugio, ma bastò quell'attimo e Ricky Ticchi le fu sopra, affondando i denti bianchi nella sua coda, proprio nel momento in cui infilava la testa nella buca da topo, dove essa e Nag avevano fatto il loro covo. Ricky Ticchi sparì giù con lei. Poche manguste, anche se vecchie ed esperte, osano seguire un cobra nella sua tana. E nella tana era buio pesto. E Ricchi Ticchi non sapeva se essa si sarebbe allargata fino a permettere a Nagaina di voltarsi per colpirla. Con la forza della disperazione si teneva attaccata alla coda, puntando i piedi perché funzionassero da freno giù per il budello oscuro che puzzava di terra umida e calda. Quando l'erba all'imboccatura della tana cessò di tremolare, Darzi disse: «Oh, per Ricchi Ticchi è finita! Bisogna cantare le esequie! La prode Ricchi Ticchi è morta! Certamente Nagaina l'avrà uccisa sottoterra!» Stava per intonare una canzone molto triste, quando ecco che l'erba riprese a tremolare e Ricchi Ticchi, tutta sporca di terra, apparve fuori dal buco. Una zampetta dopo l'altra, leccandosi i baffi. Darzi gettò un grido. Ricchi Ticchi si scrollò di dosso il terriccio, poi sternutì e disse: «Ecco, tutto è finito! La vedova non uscirà più!» Allora le formiche rosse che vivono fra l'erba cominciarono a scendere giù in lunga processione per vedere se aveva detto la verità. Quando Ricchi Ticchi giunse a casa, Teddy, la mamma di Teddy, ancora pallida perché appena riavutasi da uno svenimento, e l'omaccione vennero a incontrarla, quasi piangendo di gioia. Quella sera Ricchi Ticchi mangiò tutto quello che volle, finché non ne poté più, e andò a dormire sulla spalla di Teddy. E sulla spalla di Teddy la trovò più tardi la mamma del ragazzo, quando a notte tarda andò a vederlo. «Ha salvato la nostra vita e quella di Teddy», ella disse a suo marito. «Pensa, questa bestiola ci ha salvato tutti». Ma le manguste hanno il sonno leggero e a quelle parole Ricchi Ticchi si svegliò di soprassalto. «Oh, siete voi! Ma di che cosa vi preoccupate ora? Tutti i cobra, grandi e piccini, sono morti, e anche se non lo fossero, qua ci sono io!» Ricchi Ticchi aveva ben diritto di montare in superbia, ma non lo fece. E invece continuò a difendere il giardino come una vera mangusta, con i denti, con le zampe, con i salti e con i morsi, fino a che nessun cobra osò più mostrare la testa dentro quelle mura.